classici spari alla poesia classica per Edgar Allan Poe, Teofilo Follengo, Christian Morgenstern, è dedicato alla Metal America di Caramuel. Podiceps cristatus, podiceps Tata. nigricolis, Tata. ardea cinerea, Tata. cineus olor, Tata. branta penicola, Tata. anser, Tata. anser, Tata. buteo, buteo, Tata. falco, tiniculus, Tata. perdix, Tata. perdix, Tata. fulica, Tata. atras, vanellius, Tata. vanellius, Tata. arenaria, Tata. interpres, Tata. pluvialis, Tata. apricaria, Tata. numenius, Tata. arcuata, Tata. limosa, limosa, ringa, totonus, larus, argentatus, larus, canus, larus, fuscus, columba, palumbus, columba, oenas, pica, pica, corvus, corone, corvus, monedula, turdus, merula, parus, maior, passer, domesticus, passer, montanus, podiceps cristatus, podiceps nigricolis, ardea cinerea, cineus olor, branta penicula, anser, anser, tadomia, tadoma, buteo, buteo, falco, tiniculus, fasianus, colchicus, perdix, perdix, gallicula, chiropus, fulicula, atras, vanellius, vanellius, pluvialis, agricaria, numenius arcuata, limosa, limosa, tringa, totanus, caldris marittima, larus argentatus, larus ribullus, larus canus, larus fuscus cresti, columba decato, fumus fugaris, pica, pica, corvus corone, corvus monedula, turdus merula, parus maior, massa, domesticus, passer montanus, parus maior, podiceps cristatus, podiceps nigricolis, ardea cinerea, cineus olor, Gallicula, chiropus, fulicula, atra, vanellius, vanellius, pluvialis, apricaria, numenius, arcuata, limosa, limosa, tringa, totonus, larus argentatus, larus vidibundos, larus canus, larus fuscus, columba, palumbus, columba, oenas, pica, pica, corvus corone, corvus monetula, turdus merula, parus maior, passer domesticus, passer montanus, podiceps nigricolis, ardea cinerea, cineus olor, anser, anser, anser, anastetra, anas creca, tadomia, tadoma, amenius, menius, buteo, buteo, perdix, perdix, gallicula, chiropus, fulica, atra, vanellius, vanellius, pluvialis, apricaria, vanellus, vanellius, arenaria, interpres, numenius, arcuata, limosa, limosa, tringa, totonus, larus argentatus, larus ridibundus, larus canus, larus fuscus, columba onas, pica pica, corvus corone, corvus monedula, turdus merula, perus maior, passer domenicus, passer montanus, nevermore, nevermore, nevermore, nevermore.